Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Puntata dedicata all'ultimo romanzo di Daria Bignardi, Un karma pesante, pubblicato da Mondadori. Dopo aver raccontato la storia della sua famiglia in Non vi lascerò orfani, stavolta la Bignardi ci porta nella vita di Eugenia, una regista quarantenne piuttosto inquieta. Ecco come la descrive l'autrice. Eugenia all'inizio è una ragazzina, perché ha 13 anni quando cominciamo a conoscerla, ma si capisce subito che è una ragazzina un po' con un carattere difficile, e diventa una ragazza con un carattere complicato e poi una donna molto inquieta. In realtà Eugenia è un po' l'adolescente che è in tutti noi, cioè, c'è un periodo in cui forse tutti sono più inquieti, ed è quello della ricerca di identità. Credo che una cosa che caratterizza Eugenia sia proprio questo suo bisogno disperato di definirsi, perché lei sa tutto quello che non è, perché si sente sempre a disagio nella sua città, che è Verona, a scuola, con la famiglia, dove tutto sommato non ha un buon rapporto col fratello, non tanto con la madre, il padre muore presto, quindi è sempre un po' isolata, è sempre un po' scontenta, sente che ha qualcosa da esprimere, ma non capisce cosa, quindi insomma tutta la sua vita è sempre una rincorsa a se stessa in fondo. Come mai hai deciso di descrivere questo tipo di personaggio? Perché l'hai resa la tua protagonista? Perché la ricerca dell'identità è un tema molto femminile. Forse ho visto più donne addirittura ossessionate da questo tema. Cosa sono? Cosa faccio? Ma quello che faccio mi corrisponde? Ma sono veramente io? Un'inquietudine che si passa la vita a si oscilla tra, beh, certo, è una cosa positiva perché poi si fa molto, si dà molto, alla fine ci si trova, e poi invece in altri momenti uno dice, ma in fondo se io mi lasciavo vivere avrei capito lo stesso chi ero, cosa facevo, cosa avrei dovuto fare, che è un atteggiamento forse un po' più maschile. Ci sono due personaggi, Eugenio e Pietro è il più tranquillo della coppia. In certi momenti sembra un superficiale, sembra un po' assente, sembra uno che non si vuole prendere responsabilità, però nella durata invece si capisce che è più forse equilibrato di Eugenia. Mi interessava raccontare questa caratteristica delle persone, non solo delle donne, credo, che è quella dell'essere un po' ossessionati da se stessi. A proposito del rapporto fra Eugenia e il marito Pietro, è un rapporto insomma anche piuttosto conflittuale, loro litigano spesso e passano magari intere giornate senza parlarsi. Loro litigano moltissimo, litigano per qualunque motivo continuamente. Volevo raccontare l'imperfezione dell'amore, come sia difficile amarsi. Loro poi sono sposati, un matrimonio veramente imperfetto, che però dura, e quello che scopre Eugenia a poco è che forse il mistero del loro rapporto, e quindi forse anche il suo romanticismo, il suo significato, è proprio in tutto quello che non si dicono. Però alla fine sembra che si amino veramente, o che forse sia l'unico amore possibile questo. L'altro grande amore della vita di Eugenia è il suo lavoro, lei fa la regista. Che rapporto c'è appunto fra lei e questa sua attività? E anche questo è un rapporto un po' ossessivo, perché finché non riesce a scoprire che cosa, qual è la sua strada, è veramente una persona molto inquieta. Però forse tutto sommato è la cosa più facile, che le riesce meglio, perché in effetti forse il lavoro è la cosa che è più controllabile quando la si vive in maniera così fanatica come fa lei, mentre i sentimenti lo sono molto meno. Se pensi all'impegno che una persona mette nel suo lavoro, soprattutto forse a Milano o dalle nostre parti, è sicuramente molto maggiore cuore paradossalmente a quello che si mette nel matrimonio, nel rapporto con gli altri, in valori e rapporti che in fondo sono ben più importanti nella vita di una persona, però chissà perché, chissà per qual motivo è più facile mettere tutto nel lavoro, forse perché non c'è relazione, quindi è più verticale come rapporto, quindi basta essere. Poi lei ha talento, scopre faticosissimamente, molto legato alla sofferenza, al talento di Eugenia e all'inquietudine, alla scontentezza, però capisce che è capace di raccontare e quindi riuscirà prima facendo un cortometraggio un po' sbilenco, poi invece facendo un film che ha più successo, che però è quello che lei non ama, perché lei si affeziona a tutti i suoi film, tranne che a quello che ha avuto più successo. È sempre scontenta, è sempre è una persona molto severa con se stessa, con gli altri, ma anche con se stessa. Il tuo primo libro era chiaramente e decisamente autobiografico, invece in questo quanto c'è di Daria Bignardi? Ma magari ci sono le cose che amo di meno, che più mi hanno dato il filo da torcere. Sì, naturalmente c'è qualcosa di me. Eugenia è un po' una mia coetanea, c'è qualcosa delle donne che vede intorno a me. C'è molto del mio tempo, credo. C'è molto credo che Eugenia sia una donna molto contemporanea, perché le cose che sono importanti per lei sono le cose che sono nella vita delle donne di oggi, ma magari non tutte hanno le soddisfazioni dal lavoro che ha lei, però poi lei è sempre inquieta, anche perché fa troppe cose, quindi non riesce a godersi abbastanza le figlie che adora e che sono l'unica cosa che le dà veramente serenità, però è sempre divisa, combattuta, tra i sensi di colpa di non riuscire a fare le cose, non riesce a mettere in ordine gli armadi, non sa quando vanno lavate le tende, non. In casa annaspa, però si sente in dovere di fare, mentre Pietro, sempre tranquillo, lascia passare le cose che poi gli accadono e arrivano al momento giusto. È spietata Eugenia anche con se stessa, ma è anche comica. Eugenia forse ha le cose che mi fanno ridere nelle donne, ma mi fanno anche tenerezza perché le capisco profondamente. Nella vita di Eugenia ha grande importanza un libro. Lei dice che un libro le ha un po' cambiato la vita. Tu, sappiamo, sei un'appassionata lettrice. Nel tuo caso c'è un libro che non dico ti ha cambiato la vita, ma insomma è stato importante per te. Ce ne sono stati tanti perché sono andata come tutti a periodi. Quando ero molto giovane ho fatto proprio una scorpacciata dei classici russi e francesi perché mia madre aveva tutti i Burr, quelli grigi, da 15 lire. E, dato che io ero sempre malata, questa è una storia un po' patetica, leopardiana, ma è vero, soffrivo di tonsilliti, anche Eugenia tra l'altro soffre di tonsilliti, però lei da più grande. E quindi stavo sempre in casa e mi sono veramente divertita e quindi sui 13-14 anni ero molto sui classici. Poi invece a 17-18, come tutti, ho avuto il periodo dei vari Hermanesse, Nietzsche, figuriamoci quando ho scoperto Nietzsche al liceo, una buffata. Poi invece, grazie a Dio, ho scoperto anche la letteratura americana contemporanea. Sono andata a periodi, non ti posso dire un libro in particolare, anche se ricordo che quando avevo una ventina d'anni lessi il seminario sulla gioventù di Aldo Busi, che è un bellissimo libro. E mi ricordo che quel libro mi fece pensare, perché è un libro che parla, credo, di una storia abbastanza autobiografica di Busi, il ragazzino che faceva il ragazzo del bar, molto molto giovane, ma che aveva una grande passione per le lettere, leggeva molto e a un certo punto diede da leggere un faldone a una persona del mondo editoriale e questo gli disse: senti, questo non va bene, però tu ce la puoi fare. E si descriveva un po' come un disgraziato, questo ragazzino di campagna che veniva a Milano a lavorare. Io mi ero un po' identificata in questo ragazzino disgraziato e mi ricordo che pensai, insomma, se ce l'ha fatta lui con tutte le. Con tutti i problemi che ha, ce la posso fare anch'io. Ed è lì che ho cominciato a fare la giornalista. Devo dire che questo proprio praticamente, concretamente, è un libro, tra l'altro un libro di valore, era un Adelphi. mi ha dato alcuni stimoli, sì. E questa era Daria Bignardi, ora in libreria con Un karma pesante. Anche per oggi è tutto. Un saluto da Alessandra Tedesco.